Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 19. Welcome to the jungle. Angkor Wat. Che cazzo ci fai ad Angkor Wat? Esclamò Mirko scendendo dalla jeep, sudatissimo e in abiti assolutamente inappropriati per la giungla cambogiana, senza togliere per un istante gli occhi dalle alte guglie del tempio. È uno dei luoghi mitici della mia infanzia. Erano anni che volevo venirci e domenica prossima la riunione la faremo qui. Drago, con una radiotrasmittente in mano, vestito come Indiana Jones, indicò con un cenno alcuni mezzi pesanti poco distanti, dai quali operai in tute color khaki stavano scaricando telecamere, riflettori, enormi casse di alluminio, matasse di cavi. Una parabola satellitare era già stata montata e alcuni uomini stavano collegando i cavi a un banco di regia sotto un tendone. Drago rivolse lo sguardo verso l'imponente complesso archeologico e continuò. Lo sapevi che questo tempio è la rappresentazione della casa degli dèi? Mirko non rispose. Non ti dice niente? E poi guardati intorno, non ti sembra il libro della giungla? Mirko era ancora silenzioso. Mowgli? Baloo? Socio, stai diventando troppo serio. Solo il borbottio dei generatori di corrente gli rispose. Disse qualcosa nella ricetrasmittente in una strana lingua che Mirko non capì e poi si rivolse di nuovo a lui. Guarda che ti puoi togliere quella ridicola parrucca. Qui sono tutti abituati a lavorare per qualche dio, ma non so se conoscono i Beatles. Mirko, in piedi sotto il sole cocente, si sentì ridicolo e incazzato. Faceva troppo caldo. Quel clima umido lo stremava, era sopraffatto dai miliardi di insetti e dal costante ronzio nelle orecchie delle infinite ali che lo attaccavano da ogni dove. Aveva i vestiti fradici di sudore. Fece uno sforzo per non urlare, ma non ci riuscì. «Tutti! Sono tutti fuori di testa! Non te ne frega un cazzo, è vero? Guardati, qui, a giocare al dio della giungla!» Per chi abbiamo fatto tutto questo se ora nessuno è in grado di apprezzarlo? Avresti dovuto esserci e vedere, altro che Mowgli. Lo abbiamo fatto anche per loro. Non è vero. Potevamo fermarci prima. Potevamo avvisarli invece di usarli come cavie. Potevano essere qui, con noi, ora. Ho salvato Diossido. Drago si fece serio nel silenzio improvviso. Cioè? Gli ho dato l'antidevil. Ozelot si mise a ridere. Beh, sai, in fondo sono contento. Da solo che mai potrà fare? Sarà incazzato come una iena, ma capirà anche lui, prima o poi. Mirko lo osservò perplesso, si aspettava una reazione di rabbia a quella notizia. Guardò verso il sole schermandosi gli occhi con una mano e improvvisamente si sentì esausto in quel clima torrido. «Dov'è la doccia?» chiese senza traccia di umorismo. Drago annuì e sorrise silenzioso. «Kogaixin», disse nella ricetrasmittente, e dopo una veloce risposta indicò a Mirko la strada da cui era arrivato. «Sarà qui tra un paio di minuti». «Ma che cazzo di lingua parli?» «Oh, sono solo alcune parole, ma io imparo in fretta e poi ho due ottime insegnanti». «Ottime?» «Insegnanti, abbi fede». Rimasero in silenzio a guardare la strada che si estendeva sopra il fossato e presto un veicolo bianco apparve all'orizzonte. Mirko ebbe per un attimo l'impressione che fosse un grande missile sdraiato, ma quando fu più vicino capì che era un enorme camper dalla forma allungata e aerodinamica. «Non crederesti cosa farebbero i fedeli per compiacerti», gli disse Drago con un'alzata di spalle. Il camper si fermò silenziosamente davanti a loro. «È stata la mia casa viaggiante per un paio di giorni. C'è la doccia, la cucina, uno stereo da favola. Ma il resto scoprilo da solo. Ne farò arrivare un altro per me». La porta laterale si aprì e ne uscirono un paio di ragazze in abiti cambogiani che, sorridendo, affiancarono uno stupefatto Mirko e, prendendogli le braccia, lo guidarono silenziose verso il camper. Drago si girò verso il luogo delle operazioni. «Io devo restare, ho del lavoro da fare, io, mica come te che cazzeggi tutto il giorno, tutti i giorni. Buona doccia, socio, a dopo». Si incamminò senza fretta mentre il camper ripartiva verso l'allegra destinazione. Il mattino seguente il suono della fine del mondo strappò via Mirko dai suoi sogni sudati. Un attimo prima di spalancare gli occhi stava sognando di essere in città, come ai vecchi tempi. Era alla Resi, in una delle solite noiose serate invernali, quando facevano a gara a chi tremava di più per il freddo. Persino nel sogno il fiato si condensava quando qualcuno parlava. Poi, nascosta tra i blocchi di pietra, aveva notato una porta che non aveva mai visto prima. La aprì e sbucò in una vasta pianura sotto un cielo azzurro e brillante. La volta celeste emanava una lucentezza trasparente e lattea su ogni cosa. C'erano persone riunite in gruppetti, l'aspetto perplesso. Alcuni avevano lo sguardo rivolto in alto, altri parlavano fra loro, la voce bassa, il fare stupito. Lui stava lì, mischiato in solitudine alla folla. Osservava in cielo una serie di soli gialli disposti a formare una circonferenza e che oscillavano ruotando su essi stessi. Si sentiva in preda ad una grande meraviglia, il cuore in gola mentre ammirava quello spettacolo. Li contò. Erano 12 i soli che ondeggiavano, come se fossero stati dipinti su un enorme lenzuolo trasparente. Danzavano all'unisono con una musica muta che però gli pareva d'intuire. La musica era silenzio, e il silenzio era musica e contemplazione. Fu in quel momento di estasi onirica che uno stridio ghiacciante lo scaraventò improvvisamente nella nostra realtà. Erano i vetri di decine di finestre che esplodevano simultaneamente, sfregandogli con i bordi taglienti delle schegge la corteccia cerebrale. Mirko balzò di scatto seduto sul letto. La luce del mattino lo abbagliò. Per un attimo gli si mozzò il respiro, convinto di essere nell'Hawker che precipitava. Poi la mano sinistra toccò qualcuno sotto le coperte. E improvvisamente il ricordo del giorno prima, quasi più irreale del sogno appena avuto, lo colpì. Guardò alla sua destra e vide l'altra ragazza dormire tranquilla. In quell'enorme letto ci sarebbe stato posto per 5. Quel rumore pazzesco gli trapanò ancora una volta i timpani. Veniva proprio da sotto la finestra accanto al letto. Mirko si alzò in fretta, aspettandosi di vedere una sega circolare che tagliava del metallo o qualche grande macchinario al lavoro per limare il vetro, ma quello che lo guardava negli occhi, nel momento stesso in cui emetteva ancora quel suono lancinante, era solo un qualche tipo di pollo, una gallina, un tacchino. Non ne era sicuro, era solo certo che quell'ammasso di piume fosse più rumoroso della sirena di un allarme antiaereo. «Gamai!» disse una femminile voce ridente ai suoi piedi. Le due ragazze si erano svegliate e lo guardavano nascondendosi il sorriso con la mano. «Gamai! Gatai!» disse l'altra ragazza e scoppiarono a ridere insieme allo strano volatile. Mirko li osservò, poi si unì alle risate. Da troppo tempo non rideva di cuore e solo ora si accorse di quanto gli mancava. Rise di gusto finché le lacrime gli annebbiarono la vista, poi si lasciò cadere fra le fresche lenzuola di raso, con il telecomando fece ripartire il CD nello stereo, regolò il condizionatore e si preparò per la seconda lezione di quella strana lingua. Si stupì di come la imparava in fretta. Diossido era uscito in fretta dalla chiesa senza neanche lanciare un'ultima occhiata indietro. Aveva lasciato il pescatore seduto su una panca in prima fila. Se ne stava lì, buono e tranquillo, illuminato da un raggio di luce e con il sorriso soddisfatto di chi non avrà più niente da preoccuparsi per il resto della sua vita. Sarebbe prima o poi arrivato chi si sarebbe preso cura di lui. La visita di Mirko lo aveva confuso. Fino a quando aveva creduto di essere stato in pericolo, aveva saputo come comportarsi. Gli bastava nascondersi ed evitare di farsi fregare dal Devil. Ma ora che si era reso conto di come stavano davvero le cose, capì che avrebbe dovuto ripensare tutta la situazione. Era felice di essere da solo e poter rimettere in ordine i suoi pensieri. Percorse a ritroso il tragitto che insieme a Mirko lo aveva portato fin lì. La folla intorno alla tenda era aumentata. C'erano più persone di prima in tunica bianca. Da alcuni scatoloni aperti venivano estratte altre tuniche ancora sigillate in buste di plastica e poi velocemente distribuite fra i presenti. Anna e Acqua di Cane, mischiati alla folla, erano ormai irriconoscibili e Camillo del resto non avrebbe saputo bene cosa dirgli. Così, continuando a chiedersi cosa avrebbe dovuto fare, si incamminò verso casa. Non vedeva l'ora di ascoltare un buon disco e lasciare vagare per un po' la mente senza essere costretto a pensare a falsi dei e veri incubi. La musica, come sempre, come per tutti loro, era la medicina, l'unica amica sempre presente per consolare e fare volare il pensiero e l'animo, pronta in ogni momento di bisogno. Gli venne in mente che Drago aveva pervertito persino la musica usandola come cavallo di Troia per annientare la libera volontà. Ma questo gliela fece solo amare di più, non sarebbe riuscito a rovinargliela. Anna la Rossa vide Diossido passare poco lontano. Avrebbe voluto fermarlo, ma era troppo indaffarata a formare gruppi di persone e metterli in fila davanti alla tenda. Non aveva immaginato che sarebbero stati così numerosi. Sua regina l'aveva risucchiata in un vortice di cose da fare, fedeli da radunare, posti da preparare, e non aveva ancora avuto il tempo di riflettere su quello che stavano facendo. Le venne in mente che non aveva detto a sua regina che conosceva senza nome e il suo arcangelo. Non ci aveva proprio pensato. Si ripromise di farlo appena avessero avuto qualche momento di tranquillità. Si voltò verso l'interno della tenda e chiamò Acqua di Cane per farsi aiutare con la folla che aveva riempito ormai metà piazza. Avrebbe avuto il suo bel da fare per parecchie ore. Intanto sua regina stava mostrando ad alcuni uomini in tuta da lavoro dove montare l'alta impalcatura per il maxi schermo che sarebbe arrivato di lì a poco, in tempo per la prossima riunione.